Eccoci qua, torniamo in voce. Abbiamo in diretta una donna che lavora per la ditta Dussmann SRC, che si occupa delle pulizie all'interno delle scuole a Taranto. Sono delle donne che sono in mobilitazione ormai da diverso tempo. Pronto? Ci senti? Sì? Sì, sento. Ciao, bene. Senti, noi insomma ieri fuori orne siamo fatte un po' una chiacchierata sulla vostra situazione. Ci stai parlando di un esubero del 60%, insomma, vuoi spiegare un po' alle compagne che ci stanno ascoltando cosa succede lì a Taranto? Succede che noi già da 6 anni abbiamo avuto una riduzione di orario del 50%, sarebbe nel 2007, e sono appunto 6 anni che lavoriamo 2 ore in pratica al giorno, con 2 ore di cassa integrazione. E questo dura da 6-7 anni più o meno. Il problema è che ci sono state di recente le nuove gare d'appalto che hanno tagliato, vinta comunque dalla stessa ditta che avevamo, è stata vinta al ribasso del 60%. In pratica questo si doveva tradurre in una riduzione del personale, che noi qui tra Taranto e provincia siamo sui 700 più o meno, e insomma allora vorrebbe dire una riduzione di almeno 350-400 lavoratrici. Lavorare in pratica tre quarti d'ora al giorno senza cassa integrazione, in pratica lavorare giusto per mantenere il posto, perché tre quarti d'ora non è che 2 ore che stiamo facendo adesso, le scuole stanno in condizioni veramente pietose comunque, perché il lavoro è rimasto sempre quello, i carichi di lavoro sono rimasti sempre quelli che erano quando noi facevamo 4 ore al giorno. È rimasto quello, però diminuisce sempre l'orario in quel poco tempo. Che cosa riesce a fare? Oltretutto il governo Letta, con il decreto del fare, no, che è stato approvato, ha tagliato ulteriormente i finanziamenti per le pulizie e in genere alla scuola, perché figurati, i poveracci non hanno diritto né a un'istruzione e né a stare in ambienti puliti secondo loro, e possono stare pure nello sporco, perché i soldi vanno dati alla scuola privata naturalmente, per quello i soldi ci sono. Per quello si tirano sempre fuori. Sì, noi grazie ai sindacati confederali, tra virgolette, si sono mobilitati per darci un mese di proroga. Dal 1° dicembre in pratica ci sarà quella situazione che ti ho esposto prima. Ma voi già sapete quali saranno le persone licenziate o no, avete un'idea? No, ma noi non arriveremo sicuramente a quello, perché qua faremo la rivoluzione, non esiste proprio. Noi siamo la maggior parte, siamo donne, capofamiglia, con figli e monoreddito, e non esiste proprio. Già ci si guadagna 500-600 euro al mese e già dobbiamo fare i salti mortali per campare, perdere anche questo poco è veramente vergognoso, non esiste proprio. Si farà la rivoluzione come è stata fatta nel 2007, quando Raccontavi ieri che avevate fatto una battaglia molto incisiva. Facemmo una battaglia di quelle incredibili, occupazioni, scioperi, bloccammo il ponte girevole, non facevamo entrare neanche le navi militari, figurati, cassonetti bruciati, un assedio proprio abbiamo fatto, abbiamo bloccato un'intera città. Sì, e certo non sono queste iniziative, insomma, dei sindacati confederali che appunto fanno una finta lotta di un mese per poi lasciarvi nella merda. Lo Sly Cobas per il sindacato di... No, quelli... No, anche perché, come dire, sono quelle finte lotte, no? Che poi per la lavoratrice non ti rimane niente. Ma no, no, fanno solo accordi, quelli accordi, basta che si accorda, si sono accordati già un mese di proroga invece di porre la questione che a Taranto già c'è una situazione critica tra disoccupazione che è arrivata a livelli incredibili, siamo al 50%. La situazione dell'Ilva, ci sono licenziamenti, sta chiudendo la Vestas, cooperative, aziende, cioè qualcosa proprio di incredibile. Sì, una città devastata, abbandonata a se devastata, stessa. Taranto è una città devastata e che colpiscono quelli che già stanno lì a terra, che non già ce la, non ce la fanno a rialzarsi. Sì, insomma, meno male che voi continuate, insomma, a Taranto le lotte sono ancora in piazza e voi anche, insomma. No, no, noi lotteremo perché questo non deve assolutamente verificarsi. Senti, ci sono delle scadenze a cui partecipate, iniziative nei prossimi giorni? Noi il 18 saremo a Roma per lo sciopero appunto dei sindacati di base. E andremo appunto al ministero a far sentire la nostra voce. Quindi ci verrete in uno spezzone più grande e poi ci sarà una parte dell'avvertenza specifica vostra, sì, all'interno, sì, del corteo? Sì. Comunque sì, ci saranno diverse realtà lavorative. No, no, ci sarà appunto. E poi comunque vedremo di promuovere iniziative. Perché stiamo aspettando anche delle risposte. Quindi. Infatti, quindi è stata pure una situazione un po' di stallo. Però noi, insomma, come ti dicevo ieri, vorremmo seguire la vostra storia, la vostra battaglia. Sì. Quindi, insomma, oggi abbiamo un po' spiegato ai compagni e alle compagne che ci ascoltano qual è la situazione. Speriamo di incontrarvi, insomma, in piazza. Anche perché comunque è una situazione anche a livello nazionale, perché noi siamo presenti in tutte le regioni, in tutto siamo 12-13 mila operai impiegati per la pulizia delle scuole statali. Sì, che poi insomma te lo dico da guardano appunto, no, sono a livello nazionale. Te lo dico da lavoratrice della scuola, insomma, assunta invece dallo Stato. Insomma, eppure è una vergogna generale come venite gestite all'interno della scuola, il fatto che non siate dentro il personale della scuola, ma che si sfruttino insomma le persone, le donne in particolar modo, perché sono quasi tutte donne, modo. Siamo molte, insomma, la maggioranza sono donne, infatti. E le donne purtroppo già sono penalizzate. Il lavoro non gli viene dato, a chi gli viene tolto? Subito le donne sono le prime che devono perdere il lavoro, oltretutto. Senti, noi intanto ti ringraziamo, però seguiremo anche nelle prossime martedì la vostra vicenda e la vostra lotta. Grazie. No, grazie a te. E buona lotta. Ciao.